Un bebè che urla, sai che ti dà gioia, è un richiamo che fa svegliare nel cuore di papà e mamma. Se però di notte comincia a strillare, le sue urla faranno finire il sonno di papà e mamma, che lo dovranno riaddormentare. Mamma, mamma, e papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papa mama papa mama papa mama papa mama papa mama papa mama.